wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Oggi qui al soundcheck di Radio 24, approfittando della recentissima pubblicazione di questo album intitolato Keen con protagonista Pat Metheny, Unity Group, dedichiamo questo nostro appuntamento del soundcheck di Radio 24 a questa figura ormai leggendaria, un eccellente chitarrista, meraviglioso compositore, persona anche molto gradevole nella vita, che il prossimo agosto compirà, pensate un po', 60 anni. Sì, perché Pat Metheny è nato il 12 agosto nel 1954, fondatore del celebre Pat Metheny Group, ormai band che guida dal 1976, e pensate un po', un musicista che in più di 40 anni di carriera ha ricevuto ben 18 Grammy Awards. Giovanissimo Pat Metheny diventa docente all'Università di Miami, ma anche alla Berklee College of Music, grazie alla sua collaborazione con il celebre batterista Gary Burton. E dal primo album, che è targato 1975, il bellissimo Bright Size Life, che vedeva la partecipazione di un altro giovane puledro della musica contemporanea come il bassista Jaco Pastorius, fino a oggi Pat Metheny ha avuto un crescendo di consensi sia da parte della critica ma anche e soprattutto da parte del pubblico, anche quando ha sviluppato delle esperienze pericolose musicalmente che lo hanno spinto fino al free jazz con collaborazioni importanti come quella con il sassofonista Ornette Coleman. Dunque la produzione di Pat Metheny si sviluppa su più filoni, lo abbiamo detto, leader insieme al suo collaboratore Lyle Mays del Pat Metheny Group. Il signor Metheny si è divertito a fare musica sempre, quasi 24 ore al giorno, producendo anche bellissimi lavori come solista, eccellenti album in duetto come quello recente ormai di qualche anno fa insieme a Charlie Haden, contrabbassista, e anche numerosissime partecipazioni in album di altri meravigliosi colleghi. Dunque, come ci dice il critico e musicologo Luigi Viva, che ha scritto due libri sulla musica di Pat Metheny, il primo del 1989 intitolato Pat Metheny, la biografia, lo stile e gli strumenti, poi in seguito nel 2003 Luigi Viva celebra la sua passione per Pat Metheny con un altro libro intitolato Una chitarra oltre il cielo. Ecco, ci dice Luigi Viva che Pat Metheny muove le grandi platee e rimane uno dei pochi jazzisti a riempire i teatri e le arene in ogni parte del mondo, e con la scomparsa di Joe Zawinul e di Miles Davis è difatti il più richiesto dagli organizzatori delle grandi kermesse proprio per la qualità e originalità delle sue proposte. È originale e strepitoso è questo nuovo album intitolato Keen con un nuovissimo organico. Pat Metheny Unity Group, ve lo presentiamo proponendovi un brano splendido intitolato We Go On. Oggi ascoltiamo Pat Metheny al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. bellissima melodia di Last Train Home, brano scritto da Pat Metheny in collaborazione col suo storico pianista Lyle Mace, e brano tratto dall'album capolavoro del 1987 intitolato Still Life Talking, album che portò il Pat Metheny Group in giro per il mondo con una tournée lunghissima di oltre 200 date con concerti anche nel nostro paese. Io ricordo proprio la partecipazione anche del Pat Metheny Group al completo in quel programma televisivo che si intitolava Doc, musica e altro, a denominazione di origine controllata, e ricordo proprio che Lyle Mace portò in studio il suo Steinway Gran Coda modificato che gli permetteva di pilotare anche il suono delle tastiere e dei sintetizzatori, quindi un pianoforte all'avanguardia per quel periodo. E Pat Metheny fonda infatti con il tastierista Lyle Mace il Pat Metheny Group nel 1976, e da allora è stato uno dei rari esempi di formazione jazz capace di raggiungere il grande pubblico senza tuttavia cedere a tentazioni squisitamente commerciali. Il Pat Metheny Group ha sviluppato negli anni uno stile decisamente riconoscibile, fatto di melodia molto piacevole, fatto di dense orchestrazioni spesso unite al contrappunto classico, e anche un sound speziato di world music, in modo particolare quella sudamericana. Ecco, nella collaborazione con Lyle Mace, Pat Metheny si occupa dell'aspetto melodico, Lyle Mace invece delle complesse armonie, molto spesso supportate dall'utilizzo frequente anche di tempi ritmicamente complessi, ritmi dispari che vengono da varie culture musicali. Nel corso degli anni Pat Metheny è stato anche uno tra i primi chitarristi a capire le potenzialità della chitarra synth che ha regalato un sound molto riconoscibile alla band, spesso usata con suoni che ricordano le sezioni di fiati, altre volte per esempio il suono proprio del sitar, come in Last Train Home che abbiamo appena ascoltato qui al soundcheck di Radio 24. Si continua ad ascoltare la musica di Pat Metheny, continuiamo anche noi qui su Radio 24 con un brano intitolato Follow Me, brano portante di un album del 1997 intitolato Imaginary Day, in questa giornata dedicata a Pat Metheny in occasione della pubblicazione del nuovo album intitolato Keen. Pat Metheny Group al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Appuntamento del nostro soundcheck dedicato alla musica di Pat Metheny, che dichiara da sempre che suona la musica che gli piacerebbe ascoltare, e con grande curiosità la sua musica risulta contaminata da numerose influenze che vanno proprio dalla musica classica al jazz, a situazioni senz'altro più esotiche, e in particolare tra le altre non possiamo dimenticare la sua passione per la musica brasiliana. Infatti Pat Metheny ha vissuto anche a lungo in Brasile e si è esibito in concerto con molti musicisti brasiliani. A sua volta Pat Metheny ha influenzato numerosi musicisti più giovani, e ne è la prova il grande numero di sue composizioni riprese da altri artisti, e anche il numero di giovani musicisti che di volta in volta collaborano con il Pat Metheny Group. In questo nuovo album bellissimo intitolato Keen, pubblicato dalla etichetta Non Such per la distribuzione della Warner, Pat Metheny abbandona per un po' la sua collaborazione storica con il pianista Lyle Mace per incontrare un musicista italiano, un musicista meraviglioso, 32enne, pisano, si chiama Giulio Carmassi. Ricordatevi questo nome perché questo ragazzo ha un talento incredibile, e infatti proprio per questo motivo lo ha coinvolto nelle sue vicende musicali Pat Metheny, proprio perché Giulio Carmassi suona di tutto, suona tutto e suona benissimo. Il pianoforte, la tromba, il trombone, il corno francese, violoncello, vibrafono, clarinetto, il flauto, il sax contralto, naturalmente il Wurlitzer, fischia e canta benissimo. Si chiama Giulio Carmassi, uno dei migliori musicisti italiani della nuova generazione, ormai da qualche anno collaboratore stretto di Pat Metheny, che naturalmente estende l'organico del suo Unity Group al sassofonista Chris Potter, Antonio Sanchez alla batteria, strepitoso musicista che lavora con Pat Metheny ormai da tempo, e poi a completare il tutto il bravissimo contrabbassista Ben Williams. Questo è Keen, nuovo album di Pat Metheny Unity Group. Il brano che vi presento è una ballad dolcissima, si intitola Born. Intitola Keen, il nuovissimo album capolavoro del Pat Metheny Unity Group, dove troverete, lo ripeto, la partecipazione di un polistrumentista come l'italiano Giulio Carmassi. Segnatevi questo nome, io spero che Giulio possa rientrare presto in Italia e quindi spero di avere l'occasione di incontrarlo e di farmi una bellissima chiacchierata qui al Soundcheck di Radio 24. Non mi resta che salutarvi con una delle composizioni storiche del Pat Metheny Group. Si intitola Are You Going With Me? Questa è la versione dal vivo tratta dall'album Travels del 1983. Quindi a tutti voi buona giornata e buona musica da Gigi Telespo. Check. Il suono della musica.